Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia di Filippo Astone. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon sabato a tutti. Oggi parliamo di innovazione e parlare di innovazione in Italia è un po' una cosa strana, visto che lo dicono un po' tutti gli indicatori e io ogni tanto mi diverto a ripetere il gioco di parole. L'Italia è un paese vecchio, di vecchi e per vecchi. Però comunque c'è chi fa innovazione industriale e oggi vedremo di che cosa si tratta. Per esempio, c'è un'azienda manifatturiera a Cadoneghe, in provincia di Padova, si chiama Unox. Un tempo questa azienda produceva forni, oggi fabbrica forni interconnessi e vende esperienze o progetti di cottura complessi. Potrebbe sembrare marketing, forse lo è anche, ma è molto di più, perché i forni sono personalizzati, collegati in rete, permettono assistenza e consigli. E comunque, il cambio di filosofia, che oggi verrà spiegato dal suo amministratore delegato Nicola Michelon, ha permesso a questa azienda manifatturiera di passare da 38 milioni di euro di fatturato nel 2007 a circa 150 di oggi e pensare di guardare ai 200 milioni di fatturato nel 2020. Risultati ottenuti grazie all'innovazione intesa come innovazione di modello di business. Oggi è anche ospite con noi un amico di questa trasmissione, il professor Carlo Bagnoli, che insegna innovazione strategica all'Università di Venezia, anche delegato del rettore, e con lui cercheremo un po' di capire che cos'è l'innovazione, come funziona, se ci sono dei meccanismi, e lo faremo parlare anche di forni. Allora, saluto Nicola Michelon, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti, buongiorno al professor Bagnoli. E saluto il professor Bagnoli. Allora, ma senta, ma l'innovazione che cos'è? Diciamo che è una domanda particolarmente appropriata proprio anche sul caso Unox, perché bisogna distinguere ciò che è invenzione da ciò che è innovazione. Invenzione è la definizione di uno standard nuovo, di un prodotto nuovo, di un qualcosa che magari ad esempio a livello di prodotto ha nuove funzionalità. L'innovazione però è la capacità di portare queste invenzioni sul mercato, cioè fare profitti. Allora, parliamo un po' della Unox e poi faremo parlare Michelon. In che cosa consiste l'innovazione della Unox che ha consentito alla Unox anche di fare dei risultati così brillanti? Ecco, questo dicevo che era pronto, appropriata la domanda di che cos'è l'innovazione, perché in qualche modo Unox si divide in due anime, nel senso che esiste un'anima di invenzione, tanto che un po' la loro tagline, il loro principio guida, almeno fino ad adesso, è stato quello dell'inventive simplification, cioè riuscire a raggiungere risultati, soprattutto a livello di prodotto, funzionalità a livello di prodotto, simili ai concorrenti magari più grandi, però in maniera più semplificata. Se vuole poi le faccio degli esempi. Questa è un'anima della Unox che in particolare è riconducibile al presidente Enrico Franzolin. Poi però Unox in realtà è anche un innovatore, perché è riuscito a prendere queste invenzioni e a tradurle in profitto. E questa è la seconda anima, quindi più di capacità di appunto creare margini, creare profitti, creare fatturati, ed è riconducibile più all'amministratore delegato che è appunto l'ingegnere Nicola Michelon, che è con noi oggi. Ecco Michelon, voi fate questo forno intelligente che intuisce i risultati attesi per la cottura di certe cose e controlla i parametri e li modifica. Che vuol dire? Vuol dire che la sfida principale quando si cucina un cibo è quella che chiaramente il cibo non è vivo, ma produce delle reazioni chimiche e fisiche che vanno a determinare il processo di cottura, ma chiaramente quando tutto questo cibo è chiuso in una scatola, quella del forno, chiaramente ciò che succede, mi faccio un esempio, su uno dei 24 polli che stanno cucinando contemporaneamente dentro il forno stesso, inevitabilmente influenza il risultato di cottura degli altri 23 polli. Quindi quello che noi abbiamo fatto è arrivare a comprendere l'insieme di reazioni chimiche e fisiche che avvengono all'interno del prodotto finché viene cotto. Abbiamo smesso di guardare il nostro forno come un forno, cioè una scatola meccanica con una resistenza, abbiamo cominciato a pensare al nostro CERN come a un reattore chimico-fisico che governa la reazione chimica-fisica che chiamiamo temperatura di cottura, e abbiamo detto: bene, ciò che importa non è il tempo e la temperatura, ma sono la somma di reazioni chimiche e fisiche che avvengono nel prodotto. Di lì abbiamo creato un forno appunto intelligente, perché non solo riconosce le quantità di cibo infornate, ma traduce anche ciò che avviene e monitora avviene nella camera di cottura e monitora attraverso i suoi sensori in una retrazione, quindi in un aggiustamento automatico di tutti i parametri di cottura in funzione dell'effettivo quantità di cibo infornata. Lo traduco in parole molto semplici: un pollo o 24 polli, utilizzando lo stesso programma anche creato dall'utente, cioè che il forno inizialmente non conosce, il risultato di cottura a parità di programma iniziale è assolutamente identico. Quindi, ecco, i forni sono interconnessi a chi e tra chi? I forni sono interconnessi tra il forno e il proprio proprietario e il forno e Unox. Verso il proprio proprietario per fornirgli informazioni e consigli utili su come utilizzare al meglio il proprio forno, attraverso la nostra tecnologia che chiamiamo Data Driven Cooking, un utilizzatore connesso utilizza mediamente il forno il 25% in più di un utilizzatore non connesso. Quindi c'è una maggiore produttività. Esattamente, cioè quindi rendendogli evidenza di dati e parametri attraverso i nostri suggerimenti e quindi utilizzando la tecnologia 4.0 riusciamo realmente ad avere un impatto significativo sulla profittabilità dell'investimento fatto dal nostro cliente. Dall'altro lato il forno è connesso a Unox perché ci fornisce delle informazioni utili sia per quanto riguarda l'assistenza tecnica in termini di manutenzione preventiva, predittiva e straordinaria, sia per capire in maniera ovviamente anonima gli utilizzi della nostra macchina e quindi creare, aiutarci a produrre un'innovazione nella definizione detta prima che appunto potrà essere introdotta sul mercato attraverso una conoscenza più approfondita dell'effettivo uso della nostra macchina una volta che fa quello che deve fare presso le cucine dei nostri clienti. Potremmo dire che è un forno robot? Diciamo che è un forno bot, nel senso duplice di bot, che sono quei robot non fisici ma automatici che ormai sono nei nostri internet, è anche un forno bot inteso come strumento di investimento sul debito dello Stato italiano, che è abbastanza sicuro, la redditività quasi garantita. Ah, ecco, e quanto costa uno dei vostri forni? Può variare molto a seconda della dimensione, diciamo che il forno tipico che potrebbe acquistare un ristorante con un centinaio di coperti gira di una forcella che va da 7.500 a 10.000 euro. Beh, neanche tanto per un ristorante alla fine. Soprattutto quando si pensa che per ogni ora di processi di cottura che riusciamo a portare dalla cottura tradizionale all'interno del nostro forno, garantiamo risparmi al nostro cliente per ogni ora di circa un migliaio di euro l'anno. Ci dobbiamo interrompere un attimo, restate con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, oggi parliamo dei forni della Unox, che sono forni intelligenti, interconnessi, forni Industry 4.0, parliamo di innovazione di modelli di business, che è un argomento provocatorio in un paese per vecchi come l'Italia, parliamo di innovazione nelle imprese, poi arriveremo anche a parlare della Biennale Innovazione, che è questa grande manifestazione nella quale si ritrovano le imprese italiane a parlare di innovazione, una manifestazione organizzata dall'Università di Venezia. Tra i nostri ospiti della giornata c'è, oltre all'ingegner Michelon, che è l'amministratore delegato della Unox, tra l'altro la Unox sponsorizza questa manifestazione, il professor Bagnoli, che insegna innovazione strategica all'Università di Venezia ed uno degli organizzatori della manifestazione. Ma torniamo alla Unox. Ecco, voi con quanti ricavi pensate, Michelon, di chiudere il 2016? Abbiamo chiuso con ricavi consolidati di 100 milioni e se la domanda è relativa al 2017 ci aspettiamo di chiudere in una forcella che va dai 115 ai 125 a seconda di come evolverà la situazione. E nel 2007 eravate solo a 38 milioni? Sì, nel 2007 eravamo 38 milioni, nel 2008 con l'arrivo della crisi di Lehman Brothers abbiamo fatto un anno a 42, poi siamo ritornati nel 2009 facendo un bene di investimento. Chiaramente il 2009 è stato un anno orribile per molti, ancora 37, poi abbiamo cominciato una crescita praticamente ininterrotta. Ma questa crescita da che cosa è resa possibile? Ma direi che la risposta è proprio nel tema della giornata di oggi, attraverso l'innovazione. E come anticipava il professor Bagnoli, Unox fino al 2015 ha prodotto un'innovazione molto di prodotto, che è sicuramente i risultati degli ultimi due anni, che sono stati particolarmente brillanti, sono figli di un'innovazione di prodotto e di servizio. Ecco, il servizio si paga o è compreso nel prezzo del forno? Allora, si paga nel prezzo del forno. Cioè, quindi non voi vi fate pagare il forno tot e poi per il servizio, per l'interconnessione, per i guasti, per la manutenzione non chiedete un euro di più? Non chiediamo un euro di più, chiediamo al nostro cliente di metterci a disposizione questi dati. Pensiamo che sia un equo rapporto cliente-fornitore. Voi siete entrati in elite. Sì, noi siamo in elite borsa italiana dal 2015. Elite è un programma, lo dico per gli ascoltatori, poi ci sarà una scheda, un programma di borsa italiana al quale le aziende aderiscono spontaneamente, che impone alle aziende di avere una rendicontazione e un'organizzazione come se fossero quotate, anche se quotate non sono. È una palestra per la quotazione che poi si traduce in valore economico, giusto, no Michelon? Sì, lo condivido, e questo è, direi, la seconda, più un'ulteriore ragione, che è più legato allo sviluppo delle competenze dei nostri manager, è la vera ragione per cui siamo in elite. Uno non punta all'ingresso in borsa, ma noi vediamo in elite un ambiente stimolante, di stimolo di crescita. La cosa di cui abbiamo più paura è quella di sederci sugli allori dei risultati di oggi a scapito dei risultati di domani. Ecco, tra l'altro io ho guardato bene Elite e ho scoperto che oltre il 90% delle aziende che fanno parte di Elite di Borsa Italiana, pensate un po', sono aziende manifatturiere. Ora, adesso, siccome poi la mia voce alla fine è un po' monotona, tutte queste valutazioni su Elite e la manifattura ve le faccio sentire in una scheda. Elite, guidata da Luca Peirano, è un'istituzione di borsa italiana. Ne fanno parte oltre 300 aziende, piccole e medie imprese di grande dinamismo. Elite, dedicata alle non quotate, è una palestra e una scuola per insegnare alle società che ne fanno parte a dialogare con gli investitori terzi e a conoscere i mercati finanziari. Queste aziende si danno una disciplina e un'organizzazione come se fossero quotate. Per entrare in Elite, le aziende devono possedere un business ambizioso e di alta qualità, crescita storica e potenziale futuro, proiezioni di crescita convincenti, un manager credibile e motivazione ad affrontare cambi culturali, organizzativi e manageriali, eventualmente necessari per accedere a finanziamenti di lungo periodo. Il percorso dura due anni e ha un costo di 24.000 euro. Alla fine di questo viaggio, le aziende ricevono un certificato che dà loro maggiori opportunità di accesso a diversi canali di finanziamento. Migliora la loro visibilità e attrattività, le mette in contatto con potenziali investitori e affianca il management in un percorso di cambiamento culturale e organizzativo. A oggi sono in corso di valutazione 15 nuovi progetti di quotazione, 4 le quotazioni già concluse con successo su IM Italia, il mercato di borsa italiana dedicato alle PMI. Sono 18 le operazioni di private equity già concluse e sono già stati emessi 16 mini bond per un ammontare complessivo sottoscritto di 330 milioni di euro. Le operazioni di fusione-acquisizione, M&A e le joint venture hanno raggiunto quota 70 e sono 40 le società quotate che svolgono il ruolo di tutor nei confronti delle elite. Rieccoci in linea dopo la scheda. Oggi si parla di innovazione e abbiamo ancora 3 minuti che io volevo lasciare all'amico professor Carlo Bagnoli, prima per fare qualche considerazione ancora ulteriore sull'innovazione di Unox e sul principio dell'inventive simplification, e poi per raccontare come sarà la Biennale Innovazione nel 2017. Prego professore. Credo che riuscirò a raggiungere entrambi gli obiettivi. comunque partiamo da Unox e voglio partire da un aneddoto. Quando Unox, appunto, che sta raggiungendo questi risultati così importanti, mi ha chiamato per aiutarli in qualche modo a vincere ancora di più, io mi sono trovato in un'azienda tutta bianca e nera, perché loro hanno questo stile, tutto quanto è bianco e nero, tutti i mobili sono bianchi e neri, tutte le auto sono bianche e nere, loro sono vestiti tutti bianchi e neri, ed erano tutti tecnologi, o fisici, o chimici, o ingegneri, al che io ho detto che avevano bisogno di uno psicologo piuttosto che di un consulente strategico. In realtà... meno male che non ha detto psichiatra, un neurologo. No, esatto. In realtà però cosa succedeva? Che loro erano molto technology driven, e quindi fondamentalmente, come diceva anche prima l'ingegner Michelon, si concentravano sulla cottura del cibo, che evidentemente è una cosa importante, però se ci pensate non è detto che sia più importante lavorare sulla cultura e del quindi cibo. Li ha fatti concentrare su che? Sulla cultura del cibo. E quindi cosa è successo? Che è esistito tutto un movimento dei vari master chef che in qualche modo hanno cambiato lo status sociale dei ristoratori, elevandoli in qualche modo a uno status molto più alto. Loro però non erano preparati nel governare questo status molto più alto, e quindi oltre che ai servizi, come si diceva, di manutenzione preventiva e a un maggior servizio collegato al forno grazie all'IoT, stiamo lavorando per riuscire a dare molti più servizi, anche non direttamente di tipologia tecnologico collegati al prodotto, per aiutare i diversi ristoratori che in qualche modo non hanno la stella Michelin e che magari neanche ambiscono la stella Michelin, a soddisfare le aspettative oggi di mio figlio, che non è mai stato in un ristorante magari stellato, però si pone il problema dell'impiattamento perché guarda sempre MasterChef. Quindi certo. C'è una rivoluzione. Ecco, abbiamo pochissimo però... tempo, e adesso ci deve parlare della Biennale Innovazione 2017. Si terrà il 23 e il 24 giugno a Venezia, l'organizza l'Università di Ca' Foscari, ma in realtà assieme alle altre 8 università del Triveneto, ed è un summit in cui coinvolgiamo, abbiamo un centinaio, 120 posti per imprenditori innovatori. Il tema sarà l'impatto dell'Industria 4.0 sui modelli di business, perché in questo momento ci sono molti convegni sull'Industria 4.0, ma si concentrano su incentivi fiscali piuttosto che su tecnologie verticali. Nessuno invece sta cercando di contestualizzare cosa significa l'impatto di queste tecnologie abilitanti sul modo di lavorare, quindi sui modelli di business delle imprese. Avremo esperti di tanti settori, tanti campi italiani. Quindi le aziende italiane potranno confrontarsi sull'innovazione, confrontarsi con gli esperti, confrontarsi con chi ha fatto l'innovazione, confrontarsi con lei per cercare di progredire, perché alla fine l'innovazione è quella che permette a loro di non solo di sopravvivere, ma anche di guadagnare e di prosperare. Con una particolare enfasi su non tanto cosa posso fare a livello di prodotto tecnologicamente, ma come posso sfruttare queste tecnologie abilitanti per immaginare... Ecco, ma le aziende in ascolto che fossero interessate a partecipare, a chi possono scrivere? Ce l'ha una casella email? Vabbè, direttamente anche a me, non sono io che gestisco la segreteria, ma volentieri le posso indirizzare. Qual è la sua mail? Bagnoli@unive, come Università di Venezia.it. Bagnoli@unive.it. Io parlerei con voi per ore e ore, però siamo costretti a chiudere, ma di innovazione, di Biennale Innovazione parleremo ancora. Saluto e ringrazio il professor Bagnoli. Grazie a voi. E saluto e ringrazio l'ingegner Michelon. Grazie a voi, saluti a tutti. Noi ci sentiamo domani domenica alle 13:10. Buon sabato!